Non so che fare io questa sera. Spengo la tele, esco per strada. Sento una voce di un ubriaco, accendo la luce. Sto andando veloce e giro intorno a una rotonda senza uscire, no. E ti ho promesso che una scelta prima o poi farò. Da un po' che tutto sembra troppo statico, ma tutto intorno corre, mentre resto fermo ad un semaforo. Ti perderò per mille altre volte ancora, fra una canzone della folla, quella mattina dopo che ti fischia nella testa. E non riesci più a dormire, non ti basta respirare, non riesci più a scappare. Io te lo giuro, questa città la brucerai in un attimo, perché lo so che brucerà lontano da te. E scende lentamente solo, sale, sale, sale, sale, sale sulla tua faccia nuda. E scusami ancora se non so che dire, se non che fuori dal margine, se ne abbiamo capito che non c'è più niente da perdere. Sale, sale, sale, sale sopra una faccia nuda. Dovrei fermare questa bufera, dovrei anche smettere di parlare. Ma quante cose che devo fare non ci riesco. Se all'improvviso ti vedrò per mille altre volte ancora, in fila al bar di un'altra festa, in una canzone alternativa, nel cinema, nella bellezza. E se non riesci più a dormire perché c'è troppo da pensare, non riesci più a scappare, io te lo giuro, questa città la brucerei in un attimo, perché lo so che brucerà. Sale, sale, sale, sale sulla tua faccia nuda. E scusami ancora se non so che dire, se non che fuori dal margine, se l'abbiamo capito che non c'è più niente da perdere. Resterà un'iride con te. Sale, sale, sale, sale, sale sopra una faccia nuda. Questa città la brucerei in un attimo, perché lo so che brucerà lontano da te. E scende lentamente solo, sale, sale, sale, sale sulla tua faccia nuda.